Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Il Monaco di Matthew Lewis nella versione di Antonin Artaud. Traduzione di Ginevra Bompiani e Giorgio Agamben. Il monaco Ambrosio lasciò il letto di Matilde ebro di piacere. L'idea di una vendetta celeste lo fece ridere. Era fuori di sé. La morte stessa non gli faceva più paura e si sorprese a ridere della sua antica ingenuità. Fu in quel momento che si ricordò che su Matilde pesava sempre una minaccia mortale. Essa non aveva ancora espulso il veleno del mille piedi e Ambrosio a un tratto ebbe paura non tanto di perdere la donna che gli aveva salvato la vita, quanto di dovere fare a meno di un'amante stranamente esperta nell'arte del piacere. Tornò perciò sui suoi passi e la pregò caldamente di decidersi a fare uso del rimedio che si era vantata di possedere. «Sì», rispose Matilde, «con voi la vita diventa una delizia e non voglio perderla. Non c'è mezzo che non mi senta di impiegare per riuscirvi né pericolo che non mi senta di guardare in faccia. Mi esporrò senza timore alle conseguenze delle mie azioni per tremende che possano essere. Non c'è prezzo che sia troppo caro per il vostro possesso. Per voi mi dannerò con gioia. Un minuto fra le vostre braccia in questo mondo val bene un'eternità di espiazione nell'altro. Ma voi, Ambrosio, mi giurerete, qualsiasi cosa avvenga, di non cercare di conoscere i mezzi che io sono decisa a impiegare per salvarmi?» Il monaco prestò il giuramento richiesto non senza che la sua strana solennità gli facesse passare un brivido nella schiena, ed essa riprese: «Grazie, mio amato. L'opera alla quale mi dedicherò questa notte non finirà di stupirvi per la sua stravaganza e può anche darsi che essa mi faccia perdere la vostra stima, ma tanto peggio. Ne guardo senza tremare tutte le conseguenze e sono pronta ad assumermene la responsabilità in tutti i modi, in questo mondo e nell'altro. Non vi chiedo che di farmi entrare a mezzanotte in quella parte del cimitero che confina col convento di Santa Chiara e di aspettare finché io non sarò entrata nei sotterranei del convento. Là mi lascerete sola per un'ora e io rispondo di questa vita che conservo per il vostro piacere. Devo scendere nel sotterraneo da sola. Gridate se qualcuno si avvicina, ma se vi è cara la vita non vi azzardate a seguirmi, o sareste vittima della vostra imprudente curiosità.» Dette queste parole, avanzò verso l'adito del sepolcro, tenendo in una mano la lampada e nell'altra il paniere. Matilde cominciò la discesa. Il monaco la seguì con lo sguardo per qualche tempo, orribilmente impressionato dalla profondità di quel pozzo di cui non riusciva a scorgere la fine. Vide girare la lampada a misura che Matilde scendeva più in basso e sembrava quasi che rimanesse sempre allo stesso punto. Alla fine il suo chiarore si spense ed egli si trovò immerso nella più completa oscurità. Quando Matilde tornò, stringendo in mano il misterioso paniere col quale era partita dalla sua cella, brillava nelle tenebre, di tutte le fiamme degli inferi. Questo tentativo che temevo tanto di compiere mi spalanca definitivamente le porte della felicità e mi arricchisce di poteri soprannaturali. Oh, se osassi dirvi quel che vedo, quel che sento, se potessi iniziarvi al mio potere e innalzarvi al di sopra della vostra natura umana, come con un colpo di audacia io mi sono esaltata al di là della mia, se poteste essere come me, simile agli angeli e detenere i loro segreti, vide lo sguardo del monaco brillare di cupidigia. «E chi ve lo impedisce?» esclamò Ambrosio. «Mi credete indegno della vostra fiducia, codardo, preda delle più stupide superstizioni?» «Insisto perché manteniate il vostro giuramento di non chiedermi oltre, perché...» aggiunse, stringendosi contro di lui e imprimendogli sulla bocca un bacio che gli rimescolò il sangue. «Se vi perdono il vostro spergiuro di fronte a Dio, oso sperare che, almeno nei miei confronti, saprete mostrarvi più fedele.» Ma già egli la trascinava sul letto. La maga, esperta nell'arte dei più tremendi incantesimi, non fu ben presto altro che un corpo ansimante adorno di tutte le magnifiche debolezze della donna. Mattina che l'affluenza al suo confessionale era stata maggiore del solito, Ambrosio aveva appena rispedito una mezza dozzina delle sue penitenti abituali e si preparava a ritirarsi nella sua cella quando due donne, l'una giovane e l'altra più anziana, entrarono improvvisamente nella chiesa e fecero per avvicinarsi con grande deferenza. Stava per passare oltre quando qualcosa nella voce della più giovane richiamò di colpo la sua attenzione. La guardò meglio, era molto bella e sembrava piegare sotto il peso di un dolore intollerabile. Gli occhi, profondamente affondati nell'orbita, parevano di fuoco e i capelli le ricadevano in disordine sul viso. «Reverendo padre», cominciò con voce rotta dai singhiozzi, «voi, di cui tutta Madrid esalta le virtù, vi scongiuro, degnatevi di posare il vostro sguardo su una sventurata che rischia di perdere sua madre, la sola amica che ne resti al mondo. Una terribile malattia l'ha colpita all'improvviso e i medici disperano di salvarla.» Prima di ritirarsi, essa chiese al monaco di indicarle un confessore che potesse almeno confortare sua madre nelle estreme circostanze, e Ambrosio promise di mandargliene uno il giorno stesso. Poi si affrettò a chiederle il suo indirizzo. «Doña Elvira d'Alfa, via San Iago, a due passi dal palazzo d'Albuquerque.» La bella postulante era proprio Antonia. Il monaco tornò nella sua cella. Provava un miscuglio di tenerezza, ammirazione e dolore. Gli invadeva lentamente l'animo una malinconia inebriante che non avrebbe voluto scambiare nemmeno con una vampata di gioia. Matilde, nei momenti di più forte abbandono, non aveva mai saputo dargli un'ebbrezza così profonda. «Beato, beato l'uomo!» gridò nella sua esaltazione, «che possederà un simile tesoro!» Lo sguardo gli cadde sul ritratto della Madonna, fino a poco prima tanto venerato. Lo strappò dal muro e lo gettò a terra, calpestandolo furiosamente. «Sgualdrina!» All'ora in cui gli spagnoli fanno di solito la siesta, uscì dal convento da una porta nascosta agli sguardi. La strada, invasa dal sole, era completamente deserta ed egli arrivò senza incontrare nessuno fino alla porta di Doña Elvira. Suonò. Una vecchia domestica gli aprì e, dopo averlo condotto al piano superiore, lo fece entrare in una sorta di anticamera su cui si apriva la stanza dove riposava l'agonizzante. Antonia, che si trovava al capezzale della madre, gli venne subito incontro e non credette ai suoi occhi quando scorse davanti a sé l'illustre Ambrosio. Tutta confusa e tremante di gioia, lo annunciò a sua madre e si ritirò dopo aver avvicinato una poltrona al letto della malata. Ambrosio si adoprò immediatamente a sedurre Elvira e vi riuscì fin troppo bene. La morte era per lui un argomento molto familiare e non ci fu ansia che non seppe dissipare né terrore che non riuscì ad assopire. La malata lo ascoltava commossa e piena di fervore. Ambrosio si congedò con la promessa di ritornare l'indomani alla stessa ora, a condizione che il segreto delle sue visite fosse custodito con cura. Poi uscì dalla camera, non senza un'ultima benedizione. Sul pianerottolo si imbatté in Antonia e non seppe resistere alla tentazione di passare qualche istante con lei. Fece un pomposo elogio di Elvira, della sua pazienza e della sua fermezza d'animo. Il cuore di Antonia era gonfio di riconoscenza e la gioia illuminava i suoi occhi ancora umidi di pianto. Ambrosio ascoltò con voluttà le sue parole di ringraziamento, la melodiosa dolcezza della sua voce, la grazia delle sue maniere, la commozione che traspariva dai suoi lineamenti così nobili. Tutto contribuiva alla sua ebbrezza, ma alla fine dovette strapparsi a un colloquio che sembrava stregarlo. Raccomandò ancora ad Antonia che nessuno venisse a conoscenza della sua fuga dal convento ed essa gli promise il segreto. Un giorno che aveva trovato Elvira quasi completamente ristabilita, sentì oscuramente che avrebbe fatto meglio a ritirarsi prima del solito. Si congedò da lei e, non scorgendo Antonia nella camera che faceva da ingresso, osò andare a cercarla nella sua stanza. Dapprima Antonia sussultò, poi, riconosciutolo, gli sorrise. Fece per alzarsi per farlo passare in una camera più adatta a un colloquio, ma egli si impadronì della sua mano e la forzò con dolce fermezza a restare dove si trovava. Antonia acconsentì senza difficoltà. Le prime parole di Antonia furono per sua madre e parlò della sua guarigione con tutta la gioia di un cuore sinceramente amoroso. L'occasione sembrò al monaco straordinariamente propizia. «Ammiro, le disse, la vostra pietà filiale. Essa promette un tesoro a colui che il cielo ha scelto per ottenere il vostro affetto. Ditemi, mia affascinante bambina, avete mai pensato ad amare? Dimenticate il mio abito, non vedete in me che un vostro fratello maggiore e rispondetemi con tutta la vostra sincerità. Se ho già amato, oh, sì, certamente, e molte persone. Non vi è dunque mai capitato di incontrare un uomo che vi sembrava di conoscere già mentre non l'avevate mai visto prima, il cui portamento, i cui gesti, la cui voce parlavano stranamente al vostro cuore? accanto al quale, quando lo guardate, la vostra anima sembra aprirsi interamente, un uomo la cui presenza vi colma di allegria e che desiderate con tutta la forza quando deve allontanarsi da voi. Simili sentimenti vi sono completamente sconosciuti. Oh no, rispose la ragazza. Tutto questo io l'ho provato la prima volta che vi ho visto. Io, Antonia, esclamò il monaco col volto turbato da un'improvvisa emozione. Io, Antonia, sono stato capace di ispirarvi questi sentimenti. E afferrandole le mani, le portò con trasporto alle sue labbra. Antonia mia, magnifica Antonia, sospirò il monaco, stringendosela al petto. I suoi sensi si infiammarono e se la strinse contro, tutta tremante com'era di paura e di stupore, incollò le sue labbra che scottavano su quelle della ragazza e la sua bocca, respirò avidamente il suo fiato. Poi, tutta agitata dal disgusto e dallo spavento, Antonia sentì che la mano di Ambrosio violava il tesoro del suo seno. «Padre!» esclamò mentre, passato il primo stupore, lottava per cercare di liberarsi dalla stretta del monaco. «Lasciatemi, per l'amor di Dio!» Ma il monaco, sconvolto dalla passione, non poteva sentirla e continuò con più calore di prima, voleva subito il suo piacere e si mise in condizione di goderselo. Quando improvvisamente la porta della camera si aprì, Ambrosio si accorse del pericolo e, pieno di stizza e di spavento, si alzò precipitosamente dal divano. Antonia gettò un grido di gioia e volò verso la porta. Sua madre la accolse fra le braccia. Elvira, allarmata da alcune frasi del monaco che Antonia le aveva innocentemente ripetuto, aveva deciso di controllare la fondatezza dei suoi sospetti. D'altra parte, la pretesa virtù del monaco non l'aveva mai tratta in inganno. Conosceva troppo bene il mondo per crederlo a prova di ogni tentazione. Dopo qualche momento di silenzio, Elvira gli dichiarò con fredda cortesia che, essendosi ormai rimessa in buona salute, le sarebbe sembrato da parte sua un vero egoismo continuare ad abusare di un uomo che poteva essere tanto necessario ai suoi simili. Se il tono era cortese e perfino affabile, l'avvertimento era chiaro e il monaco se ne rese conto. Dovette rassegnarsi e rientrare al convento col cuore divorato dalla rabbia e dal disappunto. Cadeva la sera, si buttò sul letto maledicendo la sua leggerezza. Con la brusca separazione da Antonia era svanita ogni speranza di poter soddisfare una passione che era ormai tutta la sua esistenza, ed egli maledisse Elvira, causa di tutti i suoi mali. Si strappava i capelli in accessi di furore che lo lasciavano ansimante e incapace di riprendere fiato. Era a questo punto della sua frenesia quando un colpo sommesso alla porta della sua stanza l'avvertì che qualcuno aveva dovuto sentirlo. Fece uno sforzo per riprendersi e tirò il chiavistello. La porta si aprì e apparve Matilde. «Sono occupato», disse con un tono duro. «Andatevene». «Tranquillizzatevi, Ambrosio. Non vengo a chiedervi conto del vostro tradimento, ma bisogna che vi parli nel vostro stesso interesse. So bene che non è in vostro potere forzare le vostre inclinazioni. Quel po' di bellezza che avete trovato in me si è spento con l'abitudine. E se non sono più capace di eccitare i vostri desideri, è colpa mia e non vostra. Ma perché sfuggirmi con tanta ansia? Abbiate fiducia in me e vedrete fin dove può arrivare il mio amore disinteressato, incomparabile e meravigliosa amica. Ammiro le vostre virtù e le vostre parole esprimono un coraggio che vi mette ben al di sopra delle debolezze del vostro sesso. Temo proprio, Matilde, che non sia in vostro potere far sì che i miei desideri si realizzino. Ambrosio, amico mio, è venuto il momento in cui devo rivelarvi la parte nascosta della mia vita. Ho già avuto occasione di parlarvi di mio zio. Quest'uomo possedeva una scienza straordinaria e a questa scienza volle iniziarmi fin dall'infanzia. Intendo parlare delle arti relative al mondo degli spiriti. Tuttavia, se non vi avessi conosciuto, non avrei mai cercato di fare uso dei miei poteri e ho vinto la mia ripugnanza a evocare dei fantasmi soltanto per salvare questa vita di cui il vostro amore mi aveva insegnato il valore. Vi ricordate la notte trascorsa nei sotterranei del monastero di Santa Chiara, in mezzo a un'atroce turbine di mostri evocati dalla mia parola? Riuscii a fare apparire lo spirito del re dei demoni e con mio grande stupore egli obbedì puntualmente ai miei ordini. Sembrava tremare di paura e di venerazione al mio cospetto e mi accorsi che invece di vendere l'anima a un padrone, la mia audacia mi era valsa la conquista di un servitore. «Temeraria Matilde», le disse Ambrosio, «che avete fatto? Vi siete condannata alla perdizione. Avete barattato la felicità eterna contro un potere momentaneo. Se è dalla magia che deve dipendere la realizzazione dei miei desideri, rinuncio completamente al vostro aiuto. Adoro Antonia, ma non sono così cieco da sacrificare al suo possesso la mia esistenza in questo mondo e il riposo della mia anima nell'altro». «Ridicoli pregiudizi», replicò Matilde. «Arrossite, Ambrosio, di esserne rimasto schiavo. Che rischio correte accettando la mia offerta? Se esiste un pericolo, esso ricade interamente su di me. Mia sarà la colpa e vostro il profitto. Ma ve lo giuro, non c'è alcun pericolo. Il nemico del genere umano è mio schiavo e non mio padrone. Non c'è forse alcuna differenza tra il dar ordini e il riceverli, tra servire e comandare? Cacciate lontano da voi questi timori così poco adatti a un animo come il vostro. Lasciateli agli uomini comuni e abbiate il coraggio di essere felice. Questa notte accompagnatemi nei sotterranei del monastero di Santa Chiara. Siate testimone dei miei incantesimi e Antonia sarà vostra. Ottenerla a questo prezzo, anche se potessi, non lo vorrei e mi rifiuto di servirmi a questo scopo del ministero dell'inferno. Non ne avete il coraggio? Come mi sono ingannata! Quest'animo, che credevo così grande e impavido, è invece infermo, puerile, strisciante, schiavo dei più volgari pregiudizi e più debole di una donna. Che cosa? Vorreste che mi esponessi volontariamente alle arti del seduttore che, conoscendo il pericolo, rinunciassi a ogni speranza di salvezza? No. Matilde, non stringerò mai alleanza col nemico di Dio. Siete forse amico di Dio in questo momento? Credete dunque di non avere violato i vostri obblighi verso di Lui? Non avete ceduto all'adescamento delle vostre passioni? Vergogna al codardo che non osa essere né amico sicuro né nemico dichiarato. Ma c'è di più. Antonia ama un altro. E se tarderete ancora, tra pochi giorni diverrà sua moglie. Ho avuto questa notizia dai miei invisibili servitori. Dette queste parole, cavò fuori dalla veste uno specchio di acciaio levigato sul cui bordo erano incisi dei caratteri misteriosi. «Ecco», disse, «quando la vostra freddezza vi teneva lontano da me, ecco il talismano che mi ha preservato dalla disperazione. Giudicate con i vostri occhi». Egli mise lo specchio in mano. Il monaco l'afferrò con impazienza e il suo primo desiderio fu di vedervi apparire l'immagine di Antonia. Matilde pronunciò la formula magica. La superficie di acciaio levigato sembrò fondere e agli occhi del monaco apparve un turbine di immagini e di colori agitati da poderosi mulinelli. Poi le cose si composero nella loro prospettiva naturale e Ambrosio riconobbe in miniatura i lineamenti di Antonia. In quel momento un passero addomesticato volò verso di lei e, tuffando la testa fra i suoi seni, cominciò a beccarli per gioco. «Basta!» gridò come un pazzo, gettando a terra lo specchio. «Matilde, verrò con voi. Fate di me quel che volete». La maga non gli dette nemmeno il tempo di riflettere. Volò alla sua cella e tornò subito dopo con il suo cestino e con la chiave del cimitero. Tenendo sempre Ambrosio per mano, il falso novizio scese gli scalini di marmo, ma la densa oscurità che li circondava li costrinse ad avanzare lentamente e con cautela. «Voi tremate», gli bisbigliò. «Aspettatemi qui», disse. «Tornerò tra un istante». E si addentrò in una delle gallerie che, allontanandosi in direzioni diverse, formavano una specie di labirinto inestricabile. Ambrosio rimase solo. L'oscurità rinfocolò i dubbi che cominciavano a riaffacciarglisi in mente. Tremava alla sola idea della scena di cui stava per essere testimone e temeva che la forza dell'incantesimo lo spingesse a qualche azione che lo avrebbe messo per sempre contro Dio. Era immerso in questi pensieri quando fu interrotto da un mormorio confuso che sembrava venire da là vicino. Trasalì e tese l'orecchio. Dopo qualche minuto il mormorio riprese e pareva il lamento di un ammalato. A un certo punto credette di percepire delle parole e una volta fu certo di aver inteso una voce morente esclamare: «Dio, oh Dio, nessuna speranza, nessun aiuto». Dei gemiti ancora più convulsi parvero seguire a queste parole, poi si spensero e il sotterraneo ripiombò nel silenzio. «Che significa questo?» pensò il monaco inorridito. Un'idea che gli traversò bruscamente il cervello lo pietrificò. «Mio Dio!» gridò senza rendersene conto. «Sarebbe forse possibile? Che mostro sono?» Aveva appena deciso di chiarire i suoi dubbi e di riparare la sua colpa, se ne avesse ancora avuto il tempo, quando il ritorno di Matilde spazzò via questi generosi sentimenti. «Seguitemi», disse Matilde con voce imperiosa e insieme piena di fascino, che rimbalzò cupamente sulle pareti del sotterraneo. «Tutto è pronto». Le pareti del sotterraneo erano come farcite di crani umani e formicolavano di strane bestie mentre il suolo era cosparso di resti ripugnanti. quasi a ogni passo una statua si levava davanti a loro come uno spettro con gli occhi ancora fiammeggianti di vita. Finalmente giunsero al centro dell'antro. In quel punto si apriva un vasto spazio circolare nel quale sembrava confluire tutta la rete delle gallerie sotterranee e di cui l'oscurità impediva di misurare l'altezza. Matilde piazzò il monaco al centro della caverna e tracciò un cerchio intorno a lui e un altro intorno a se stessa. Poi cavò fuori dal paniere una fialetta dalla quale versò a terra qualche goccia a intervalli regolari. Si piegò sulle ginocchia, borbottò delle parole inintelligibili e dal suolo scaturì una fiammata latescente e sulfurea che andò gradatamente aumentando in violenza e quasi in spessore fino a coprire in un istante con le sue vampe tutta la superficie del sotterraneo, a eccezione dei cerchi in cui stavano rintanati Matilde e il monaco. La paura di Ambrosio cresceva. Improvvisamente Matilde gettò un grido violento che la lasciò come annientata. «Viene!» urlò Matilde esultante accanto a lui. Ambrosio trasalì e si preparò a guardare in faccia lo spettro, ma quale non fu la sua meraviglia e la sua gioia quando scorse un essere la cui bellezza era superiore a ogni immaginazione. Pareva nudo, un bagliore insopportabile, fatto di fuochi multicolori lo avvolgeva, dalla testa ai piedi, e nella sua mano destra splendeva un ramo di mirto d'argento. Matilde apostrofò allora lo spirito. Gli parlava in una lingua che il monaco non poteva comprendere, e lo spirito rispondeva nello stesso idioma sconosciuto. Bisognava a tutti i costi che uno dei due cedesse, e nel momento in cui la bella, in un estremo movimento, parve minacciare il demone di una qualche misteriosa e terribile vendetta, questi cadde in ginocchio e con aria umile e sottomessa le porse il ramo di mirto. Non appena Matilde l'ebbe nelle mani, la musica riprese, ma questa volta con un ritmo selvaggio come impaziente di consumarsi. Una densa nube ricoprì l'apparizione. Le fiammelle bianche si spensero e l'oscurità regnò nuovamente nella caverna. «Ce l'ho fatta!» mormorò la donna. «Anche se mi è costato più fatica di quanto non credessi, Lucifero, che ho evocato, è stato lungo da sottomettere. Per domarlo ho dovuto chiamare in mio aiuto i più potenti sortilegi, ma mi sono obbligata a non invocare mai più il suo ministero in vostro favore. Cercate quindi di approfittare di un'occasione che non si ripresenterà un'altra volta. Ormai la mia arte magica non può più esservi di alcuna utilità e non potrete sperare nell'aiuto degli spiriti che invocandoli voi stesso e accettando senza riserve le condizioni che essi vi imporranno. E so bene che non vi deciderete mai a farlo. Ecco il mirto miracoloso. Finché resterà in vostro possesso, tutte le porte si spalancheranno davanti a voi e grazie a esse penetrerete nella stanza di Antonia. Allora soffiate 3 volte sul ramo, chiamatela per nome e fatelo scivolare sotto il suo cuscino. Immediatamente un sonno di morte si impadronirà di lei e le impedirà di resistervi. Una volta in quello stato, potrete senza timore lasciare campo libero ai vostri desideri, perché quando il giorno avrà fatto svanire gli effetti dell'incantesimo, Antonia si accorgerà dell'affronto subito, ma non saprà chi incolpare. Rallegratevi, Ambrosio mio, e possa questo servigio che vi rendo darvi la misura del mio disinteresse e della mia amicizia.